Storiacce di Raffaella Calandra. Hanno svuotato dappertutto, rotto tutto, cioè perciò tu non riconosci più casa tua, avevi lo schifo delle tue stesse cose. Ferriata forzata, il vetro rotto e poi dentro è come se fosse passato un tornado o un terremoto. Cocci dappertutto. Anche i barattoli del caffè e dello zucchero erano stati rovistati. Siamo in una delle 689 case derubate ogni giorno in Italia, una ogni due minuti, un dato allarmante che fa cambiare le nostre abitudini, un dato all'interno del quale ci sono le storie delle nuove bande che terrorizzano le città, dei trucchi per violare gli appartamenti, dei codici lasciati sulle porte dai ladri, ma anche delle tante iniziative di difesa prese da famiglie e comuni. E da qui, da questa casa violata, parte questa puntata di Storiacce. Se volete scriverci, siamo sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter all'account @RaffCalandra. Da ora per 45 minuti la casa è nostra, signori. Andiamo. Ok, Tim, è sopra di te. Sì! Abbiamo rubato 35 milioni di dollari in oro senza neanche impugnare una pistola. Quando se ne vanno i ladri è l'insicurezza quella che resta, quella sensazione che poi trasforma le case in fortini blindati con allarmi e telecamere. Quando se ne vanno i ladri sono le abitudini delle famiglie spesso a cambiare e questo succede 689 volte al giorno in Italia, calcola il Censis. Succede nelle grandi città, a cominciare da Milano come in provincia, succede soprattutto al nord-ovest dove 92.000 furti sono stati contati in un anno, più che raddoppiati in un decennio, ma si ripete anche a sud e con modi talvolta pure più violenti. Comune a tutti è quella sensazione allora di impotenza che resta nelle stanze violate dai ladri e nella voce di Ermelinda che ancora trema al pensiero delle porte picconate e dei ricordi di tutta una vita svaniti dalla sua casa di Modena. Da noi hanno sradicato l'inferriata dal muro, da dietro, perché avendo la campagna dietro hanno rotto il vetro e sono entrati in casa rompendo poi fra l'altro tutto, cioè oltre comunque portandosi via tutti i ricordi di una vita, quando nasci, quando ti sposi, quando diventi mamma e la cattiveria di rompere gli infissi. Oltretutto noi siamo una famiglia alluvionata, avevamo appena ristrutturato facendo sacrifici per riacquistare quello che aveva rotto l'acqua, no? Di nuovo tutto da rifare, tutto da ricomprare. E oltre quello la cosa più brutta per me, cioè in assoluto, è la violenza psicologica che ti hanno messo le mani nella tua roba. Una violazione della propria intimità. Perciò vedevi sangue, cioè avevi lo schifo delle tue stesse cose. Avevate già qualche sistema di sicurezza oppure allora, l'avete introdotto dopo? Subito dopo l'abbiamo ripristinato, perché le dico, con l'alluvione abbiamo avuto danni a tutto l'impianto elettrico, abbiamo dovuto affrontare tutte le spese di tasca nostra. Secondo lei questo, il fatto che sia stata presa di mira anche la vostra abitazione, potrebbe essere dovuto al fatto che i ladri sapevano che l'allarme non era ancora stato riattivato? Io me ne sono chieste tante, mi sono chiesta se poteva essere qualcuno che ci conosceva, non so se ci tenevano d'occhio. La polizia ci ha detto anche il fatto che magari adesso con Facebook è tanto bella, perché magari comunicate, ma è tanto bella anche per loro perché riescono a entrare e captare le cose. Com'è cambiata la sua quotidianità anche dopo un furto di questo tipo? La bimba non ha più voluto dormire da sola. Io l'allarme l'ho voluto non più per non far portare via la roba, perché ormai hanno portato via tutto, io non ho più niente. Io ho paura quando sono in casa io, che se qualcuno viene e gli dico guarda che io non ho più niente, questi qua mi menano pure perché non credono. Hanno svuotato dappertutto, rotto tutto, aperto cassonetti, e persino lo zucchero e il caffè, per intenderci, cioè loro hanno svuotato barattoli per terra, rotto sciacquoni, ti guardano impossibili, posti che uno dice ma io non ci avrei neanche mai pensato a nasconderli qua, ti aprono, cioè perciò tu non riconosci più casa tua. Le porte d'interno a me le hanno prese a picconate, giusto per il gusto di rompere. Mm-hmm. Ermelinda, come migliaia di altri italiani, ha trasformato la sua casa in una specie di roccaforte, con allarmi, videocitofoni e ricorre ad ogni stratagemma per non far capire che la casa è vuota. Trucchi utili a scoraggiare i furti, secondo gli investigatori, come sentiremo tra poco, ma trucchi ben noti purtroppo anche ai ladri, soprattutto a quelli che puntano a bottini ricchi e che per questo studiano le abitudini delle famiglie, le caratteristiche delle case e in alcuni casi lo indicano anche con segni alle porte. La X significa buon obiettivo, quattro cerchietti, bottino ricco, la Z, cane in casa e poi ancora tacche diverse se è meglio entrare al mattino o a sera o per indicare quante persone vi abitano. Segni come quelli diventati un caso a Santa Maria di Sala nel Veneziano che da allora ha creato anche una piattaforma Facebook dove ciascuno segnala movimenti sospetti, racconta il sindaco Nicola Fragomeni. Noi abbiamo la popolazione nostra che è un po' martoriata da qui. Gli abitanti del suo comune sono andati tutti in allarme perché a un certo punto sono comparsi sui citofoni o sui portoni delle case degli strani segni, delle croci, dei cerchi, delle lettere che poi sono stati decifrati dagli investigatori come un codice dei ladri. Codici degli zingari, codici che i ladri, piuttosto che hanno un codice, un iter comportamentale. A che cosa corrispondono questi segni? Segni se l'appartamento è buono o non è buono, ma se vale la pena o non vale la pena, cioè nel senso sono persone che restano in casa, se si muovono. Una indicazione sulla casa, cioè sulle abitudini di chi vi abita, ad esempio. Bravissima, sulle abitudini, si muovono o non si muovono. Abbiamo la zona industriale più importante della provincia di Venezia, no? Ci proteggiamo con un sito via Facebook, ognuno scrive se vede qualcosa di non buono. Devo essere onesto, non possiamo fare la guerra con questi soldati qui, perché ne abbiamo veramente pochi. I carabinieri sono, mi pare che siano 7 o 8 e devono servire 3 comuni del valore di 50-45 mila persone. Siamo ecco, che tipo di furti ci sono stati nella vostra zona? Per esempio in una via ne fanno 3, 4, 5, che vanno sulla prima casa. Poi vanno sulla terza, vedono dove c'è buio, dove è libero. Il punto è che non hanno paura perché sanno che nessuno gli fa niente poi alla fine. Adesso stiamo mettendo 25 telecamere in più, è l'unico deterrente che possiamo avere, registrarli per poi prenderli, per poi assicurarli alla giustizia, che poi la giustizia, se Dio vuole, li tiene un po' di giorni, se va male il giorno dopo sono fuori. Hanno fatto saltare il bancomat l'altra sera con tanto di polvere da sparo. Cioè... E lei come primo cittadino che cosa ha pensato di fare? Devo cercare di far sì che questo comune un giorno possa essere un comune videosorvegliato. Ma questo è l'unica cosa che io posso fare, perché mica posso andare a fare la guerra da solo con la lancia. E questo è un punto centrale della questione, il fatto che poi anche quando vengono arrestati, poco dopo i ladri sono di nuovo operativi nei loro territori, per non parlare delle bande che proprio per sfuggire alla legge si servono dei bambini. Ed è allora la certezza della pena quella che vuole rafforzare un provvedimento annunciato dal vice ministro alla giustizia Enrico Costa, che sentiremo tra poco. Perché una cosa è certa, i furti aumentano terribilmente il senso di insicurezza delle città e cambiano da città a città. Così ad esempio a Milano, racconta il numero 2 della squadra mobile Maria Falcicchia, le bande organizzate entrano in azione soprattutto nel weekend e nelle vacanze, quando i milanesi partono. Da una parte ci sono i ladri occasionali su cui è più facile incappare in una situazione di flagranza, dall'altra ci sono delle bande più organizzate che magari nell'obiettivo scelgono anche obiettivi che si presentano già proprio per la località, il punto centrale dove sono ubicate le case, come posti dove si possono trovare bottini molto importanti. Si innalzano i numeri in concomitanza con i fine settimana, con le vacanze, con il periodo in cui le città un po' si spopolano. I furti più importanti in casa a Milano ad opera di chi sono fatti? Su Milano diciamo una forte predominanza per quanto riguarda i furti organizzati e più che altro di etnie che vengono dalla ex Jugoslavia. Persone che si specializzano in questo furto, che acquisiscono informazioni, studiano l'obiettivo, sanno quando la casa è vuota e magari trovano anche un punto di debolezza dell'abitazione, che può essere una finestra, un ballatoio. Per quanto riguarda invece le zone. Chi è organizzato impiega mezzi maggiori per poter commettere questo reato e quindi diciamo l'obiettivo è quello di poter asportare un bottino che possa essere maggiore. Quindi si dedicano a abitazioni del centro città. Tenga conto che in alcuni casi siamo anche arrivati a scoprire che erano riusciti ad asportare la cassaforte proprio estrapolandola dal muro. Sappiamo che succede molto meno che il classico furto d'appartamento, però purtroppo succedono anche casi di rapine a volte anche violente. Milano, non tanto la città ma quanto la provincia, in passato ha avuto questo tipo di realtà criminale che era per lo più appannaggio di bande di etnia albanese. È un fenomeno fortemente decrescente. Pensate che in qualche modo avvengano anche dei furti su commissione? Se su commissione intendiamo che qualcuno ha dato l'imbeccata giusta, può capitare. Se nella provincia lombarda, dove sono stati denunciati 19.000 furti, dunque sono bande in prevalenza slave a svaligiare le case, nel resto d'Italia seminano il terrore soprattutto i georgiani, capaci con le loro chiavi di aprire ogni porta. Storiacce. 4 giorni fa una signora è arrivata a casa in macchina verso le 9 di sera, vive da sola perché è vedova, è entrata nel suo giardino, una villetta singola, da dietro lei è arrivato una persona che gli ha messo un cappuccio in testa, gli ha messo una mano davanti alla bocca, l'ha legata e l'ha trascinata in casa, poi l'ha legata con un filo del telefono a una sedia e hanno cominciato a picchiarla, poi l'hanno lasciata lì dopo avergli rubato tutto quello che poteva avere. Si è liberata dopo 2 ore tranciando coi denti il cavo che la legava. Ha visto la paura, lo smarrimento e il dolore sul viso di chi arriva al suo sportello, Ruggero Garagnani, lui che è uno dei volontari del Comune di Modena, impegnati nel servizio Non da soli, uno sportello di assistenza e rimborso per quanti subiscono furti di ogni genere e soprattutto in appartamento. 69.000 euro è l'importo devoluto tra il 2007 e il 2014 a favore delle vittime, in molti casi famiglie già danneggiate da terremoto, alluvione e poi pure dai ladri. È una cosa che crea un'ansia e un'angoscia incredibile e si protrae nel tempo, tant'è che abbiamo anche un servizio di assistenza psicologica da parte di professionisti, diciamo, dell'ASL. Ecco, quindi le persone che vengono da voi chiedono innanzitutto un aiuto anche per le pratiche burocratiche che bisogna fare per fare tutte quante le denunce e poi anche per un risarcimento. Come avviene il risarcimento? Il risarcimento avviene mediante la consegna a noi delle fatture o delle ricevute fiscali, delle spese sostenute, accompagnati dalla denuncia fatta all'autorità competente. Cioè, ecco, quindi voi rimborsate che cosa? Rimborsate le spese fatte per mettere in sicurezza la casa? Che cosa rimborsate? Noi rimborsiamo le spese fatte sugli infissi, sulle frazioni e sulle spese e sui danni procurati nelle abitazioni, cioè danni materiali visibili. Naturalmente furti di gioielli o denaro, eccetera, questo no, perché non è verificabile. Famosi per la loro abilità di entrare nelle case dalla porta principale sono, come dicevamo già prima, i georgiani. Sono i dati degli arresti a dirlo, rielaborati nel rapporto Censis, di cui Anna Italia è la referente per il tema sicurezza. I furti in casa sono un fenomeno che è diffuso in tutto il paese, ma che è particolarmente sviluppato nelle aree del nord, in particolar modo nel nord-ovest. Vengono colpite tanto le case isolate quanto le case che si trovano all'interno di condomini. C'è anche una forte professionalizzazione di coloro che entrano negli appartamenti. In particolar modo ci sono delle bande, diciamo, che tipiche sono le bande, diciamo, che provengono anche dai paesi dell'est, che si introducono, che invece sono bande di professionisti che girano nelle diverse province. I furti, al di là di quello che può essere l'immaginario, non avvengono soprattutto di notte, ma avvengono soprattutto di giorno, magari nelle ore tarde della giornata. E ad esempio è diventata abbastanza nota la banda dei georgiani, che hanno una modalità tutta loro di azione. Qual è? Sì, entrano nelle abitazioni, entrano dalla porta principale, riescono praticamente ad introdursi in qualsiasi tipo di appartamento. Abbiamo citato la banda dei georgiani, ma ci sono anche italiani tra i responsabili dei furti, tra i ladri. Certo, cioè, dobbiamo anche un po' sfatare questa immagine che vede soltanto gli stranieri che entrano nelle nostre abitazioni, così, e italiani come stranieri, per esempio i colombiani, comunque i sudamericani sono più acrobatici e quindi entrano più dall'esterno. Stessa cosa vale per i minori. Tendenzialmente anche gli italiani stanno più su un livello alto e professionale. Un'altra cosa che capita spesso è che su uno stesso appartamento ci siano più furti nell'arco di un periodo breve. Questo significa che i primi che sono entrati magari sono dei ladri più sprovveduti, che comunque si sono guardati intorno e capiscono se su quell'appartamento è il caso di tornare, perché magari pensano di poter trovare un bottino più consistente. In questo modo, secondo lei, si possono spiegare anche dei codici che a volte sono stati trovati su dei citofoni, su dei portoni? Certo, si dice che appunto che si mettano dei codici, dei segnali, che vengano fatte delle piccole intaccature sulla porta. Certo che sì, certo che sì. Che servono a indicare appunto la tipologia della casa. Ecco, certo. Come spiegate invece anche l'aumento delle rapine? Anche le rapine crescono molto, però stiamo parlando comunque di un fenomeno che numericamente è meno significativo rispetto a quello dei furti in abitazione. Certo. La cosa interessante è che le rapine sono più numerose al sud rispetto che al nord. Questo che cosa ci fa pensare? Che siccome per la rapina comunque è necessario anche un livello di organizzazione maggiore, stiamo parlando comunque di individui organizzati. Davanti al boom dei furti in casa, un reato che crea, come abbiamo sentito, grande paura e grande insicurezza nelle famiglie, è il vice ministro della giustizia Enrico Costa ad annunciare una stretta del governo. Noi adesso abbiamo allo studio dell'ufficio legislativo una serie di interventi e di accorgimenti normativi, partendo da una constatazione, proprio quella che lei faceva. In molte, troppe circostanze gli sforzi delle forze dell'ordine nell'individuazione dei responsabili vengono poi vanificati, perché nel giro di pochissimo tempo, anche attraverso l'accesso a dei riti alternativi che di fatto fanno calare sensibilmente la pena, queste persone si ritrovano immediatamente in libertà e molto spesso tornano a delinquere. Sempre più spesso c'è una progressione da furto in rapina. I padroni di casa si trovano ad individuare i responsabili, questi non si fanno molti scrupoli anche a usare la violenza. Mi sembra di capire che l'intervento sugli anni e sulle pene e sulla possibilità di accesso ai riti alternativi. Ci sono vari passaggi, il bilanciamento di circostanze e altri aspetti che secondo me possono essere valutati con attenzione. Nel frattempo, tutti quanti noi qualche precauzione possiamo comunque prenderla, anzi dobbiamo, esorta Maria Falcicchia, funzionaria della Questura di Milano. Qualunque ostacolo che loro incontrano è comunque un deterrente a lasciar perdere quell'abitazione, quindi più ostacoli incontrano più è facile che quella casa non venga presa di mira. Bisogna attuare delle piccole regole, non sono tante ma sono utili, e una di queste è sicuramente di affidare dei lavori all'interno della propria abitazione, che può essere da rifare un doppione di una chiave piuttosto che qualunque altro tipo di manutenzione, a persone affidabili, sicure di cui si ha piena fiducia. Fare entrare un esterno nella propria abitazione, mostrargliela, dobbiamo avere comunque il dubbio che quelle informazioni che lui in quel momento sta rilevando possono anche essere travasate ad altre persone. Sicuramente quella di dotare l'abitazione di un allarme. Mi rendo conto che la spesa iniziale può essere significativa, però il beneficio è enorme. Noi siamo disponibili a far collegare gli allarmi con le nostre centrali operative ed è un servizio che forniamo gratuitamente. Se scatta l'allarme intervengono immediatamente le forze dell'ordine. Altri poi piccoli accorgimenti che sono utili: intanto avere buoni rapporti vicinato, informare un vicino se si sta lasciando la vicino che si conosce bene, che si sta lasciando la casa, magari per qualche giorno, per periodi più lunghi, evitare di far accumulare la posta nella buca, perché questo dà l'impressione di appunto persone assenti. Se l'assenza dura poco, lasciare una luce accesa ad una televisione può essere un deterrente, mai una segreteria telefonica in cui uno segnala quanto manca e per quanto tempo. Ma l'uomo da sempre è ladro e ha rubato nelle case altrui anche nella stagione senza tempo del mito. A questo punto, come sapete, la linea va alle mitiche storiacce e a Giorgio Geranò, professore di greco all'Università di Trento e autore per Sonzogno di libri sulla mitologia greca. Mitiche storiacce. Gli antichi avevano leggi molto severe contro i furti. I romani punivano con la fustigazione per gli uomini liberi e con la pena di morte per gli schiavi ogni reato di furto, e garantivano anche il diritto delle vittime alla legittima difesa. Di notte era concesso uccidere qualsiasi ladro, di giorno era ammesso solo se il ladro era armato. Come si intuisce, la situazione dell'epoca non doveva essere molto diversa dalla nostra. Ma quello che nella realtà era severamente punito, nel mito era ammesso e persino celebrato. C'era addirittura un dio dell'Olimpo che era il protettore della categoria dei ladri. Era Hermes, il messaggero degli dei, che con i suoi sandali alati volava rapidamente tra cielo e terra. La sua carriera di ladro, Hermes la inizia con un furto clamoroso ai danni di un suo fratello più grande, il dio Apollo, dimostrando tra l'altro una precocità insuperabile. La sua prima impresa criminale la compie infatti da neonato. Era nato da solo due giorni, ma già si dimostrava il principe dei ladri. Non solo Hermes ruba ad Apollo tutte le sue mandrie, ma riesce anche a confondere le tracce, facendo camminare i buoi all'incontrario e indossando lui stesso scarpe enormi. Un figlio di Hermes era Autolico, un brigante pure lui, ma soprattutto il nonno di Ulisse. L'eroe dell'Odissea, insomma, discendeva da una famiglia di ladri. Era per così dire un figlio d'arte. Proprio per questo, dicevano già gli antichi, Ulisse era il più furbo di tutti gli eroi. Se avete storie da segnalarci, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce oppure su Twitter all'account Raf Calandra. Sul sito di Radio 24 trovate invece il podcast per riascoltare questa come tutte le altre puntate di Storiacce. Ciao a tutti, a presto!